Respiro. Bentornati a Respiro, io sono Cristina Carpinelli. Questa settimana abbiamo deciso di raccontarvi una storia che ha a che fare con l'ambiente e la solidarietà. Parliamo di banco informatico, ci spiega di cosa si tratta Stefano Sala, che è la persona che lo ha inventato. Il banco informatico è un'associazione di volontariato nata nel 2003 e iscritta al registro delle ONLUS della Regione Lombardia, che ha questo scopo molto particolare, quello di ritirare dalle aziende computer usati ma funzionanti, metterli a posto nei propri laboratori attraverso una rete di circa un centinaio di volontari e poi a sua volta distribuirli a quelle realtà no profit che, non avendo possibilità di acquistare attrezzature, possono però in questo modo avere delle attrezzature funzionanti e realizzare meglio i propri scopi sociali. Quanti computer avete rimesso in circolo, diciamo così? Noi rimettiamo a posto circa 5.000 computer ogni anno, che servono per l'utilizzo di circa 600 associazioni no profit all'anno. I computer vengono ritirati da alcune centinaia di aziende che, quando cambiano il loro parco macchina di attrezzature, sanno o si ricordano di contattare il banco informatico per dare le attrezzature che invece dovrebbero smaltire altrimenti a pagamento. Ogni quanti anni le aziende normalmente rifanno, diciamo, il loro parco computer? Ma dipende molto dai settori di attività. Diciamo, i settori più finanziarizzati come le banche, le assicurazioni, hanno normalmente un ricircolo dei computer ogni 3 anni, e questo per noi è molto utile perché dopo 3 anni un computer ha ancora una grande validità. E qui sta un po' l'aspetto interessante, cioè c'è anche un grosso vantaggio economico per le aziende a dare i computer al banco informatico, perché se dovessero invece smaltirli come computer non più funzionanti, oggi la legge prevede che questo smaltimento sia a pagamento. Se invece prima che il computer non funzioni più, quindi sia ancora funzionante per quanto obsoleto per l'azienda, l'azienda lo dona al banco informatico, non ha alcun costo. Abbiamo come statuto questa 2 o 3, diciamo, punti fermi. Il primo è che non doniamo computer ai privati perché non siamo in grado di accertarci della loro effettiva impossibilità ad acquistarli. Diamo computer soltanto alle realtà no profit, quindi questo è il secondo paletto: occorre essere una realtà no profit, quindi associazioni di volontariato, ONLUS, associazioni semplici, scuole, eccetera. E terza categoria, occorre un progetto, occorre che una ONLUS ci mandi una richiesta al nostro sito www.biteb.org dicendo quanti computer ha bisogno, con che scopo, per quale scopo essi devono essere installati, e così noi riusciamo anche a tarare qual è il livello di computer più utile per la ONLUS stessa, perché uno dei problemi fondamentali è che tutti sembrano sempre volere il miglior computer esistente al mondo, ma in realtà la maggior parte di noi usa il computer per il 10-15% delle sue possibilità. Quindi perché buttar via un computer che magari non va più bene a una banca o un'assicurazione perché devono fare operazioni molto complicate, ma per imparare a usare i programmi di videoscrittura o di foglio elettronico vanno benissimo. Ecco, lei, dottor Sala, è stato uno degli ideatori di questo banco informatico? Ma sì, le racconto com'è nata perché è una storia interessante. Quando ero amministratore delegato di una società che si occupava di bonifiche e di risanamento di beni dopo allagamenti o incendi, mi capitò di essere interpellato per quel famoso aereo da turismo che entrò nel Pirellone, come tutti voi ricorderete. Ecco, a quel punto la regione ci chiese di salvare i dati dai computer che erano stati danneggiati da questo evento. Noi salvammo i dati dai computer attraverso delle procedure di laboratorio, dopodiché alcuni computer erano ancora funzionanti, ma la regione ci disse: no, dateci soltanto i CD con i dati, perché i computer li compriamo nuovi. Allora, in quel periodo avevo in magazzino circa un centinaio di computer che ho tenuto lì, chissà perché mi dispiaceva buttarli. E allora è successo che dopo qualche mese mi è capitato di incontrare un sacerdote genovese che era andato a trovare un suo amico in Perù, a Lima, e quando fu lì si appassionò a quella terra e decise di rimanere lì tutta la vita, e diventò ed è tuttora vescovo della città di Lima. E questo vescovo mi disse: sai Stefano, io qui in America Latina abbiamo un problema, che siamo sempre senza soldi, e appena abbiamo 4 soldi festeggiamo e quindi torniamo immediatamente senza soldi. E allora mi disse: io qui ho capito che più che dare soldi a questa gente noi dobbiamo educarli. E come facciamo ad educare? Dobbiamo fare una scuola e un'università di economia e commercio. Avendo fatto anch'io economia e commercio alla Bocconi a Milano, questa idea mi entusiasmò e gli chiesi: ma come posso aiutarti? Lui mi disse: guarda, dopo 3 anni abbiamo già 3.000 studenti ma neanche un computer. computer. E io gli dissi, ma guarda che io ho 100 computer in magazzino. E così nacque questa prima commessa, chiamiamola così, e nacque l'idea di trovare il modo sistematico di raccogliere i computer dalle aziende e donarli a chi ha bisogno. Così nacque il banco informatico. Diciamo così, ad oggi, fatto 100 il numero dei computer che noi distribuiamo ogni anno, circa il 60% rimane in Italia, circa il 40% va all'estero. Di quelli che rimangono in Italia, i destinatari principali sono quelle associazioni che si occupano o di disagio giovanile o di assistenza agli anziani o addirittura di sicurezza di intervento o di emergenza. All'estero invece i nostri destinatari principali sono delle opere legate alla Chiesa Cattolica in giro per il mondo, quindi scuole, assistenza. Abbiamo per esempio appena mandato in Eritrea 150 computer alla diocesi di Asmara, perché servono per andare a informatizzare le scuole di tutta la diocesi, che in questo modo possono ai bambini delle elementari cominciare a dare i primi rudimenti di computer. Ma c'è un'altra piccola storia che potrebbe essere interessante, che è una donazione che abbiamo fatto di computer qualche mese fa. Cambiamo emisfero del mondo, andiamo nell'estrema Russia, in Siberia mi scrive un sacerdote di là, già mi scrive in russo, quindi è molto difficile da decifrare, ma ci riusciamo, e mi dice, senta, guardi, io ho 75 anni, ho circa 20 chiese che devo girare tutti i giorni per andare a dire la messa, e ho tanti preti che sono in giro per questa diocesi, e fino adesso sono sempre riuscito a parlargli andandoli a trovare. Purtroppo ormai ho una malattia alle gambe e non posso più andare a trovarli. Allora, se lei mi aiutasse con un computer, io potrei cominciare a comunicare con i miei sacerdoti anche attraverso questo strumento. Se mi date un computer, permettete che io possa andare avanti a fare il mio lavoro. Ecco, casi di questo tipo sono quelli che poi ci danno la maggiore soddisfazione. Ecco, ma voi lavorate soltanto con onlus legate alla Chiesa? Assolutamente no, abbiamo regalato computer a Emergency, anche a opere legate alla tradizione delle cooperative dell'Emilia Romagna della Toscana, quindi no, siamo assolutamente aperti a qualunque realtà abbia i requisiti detti, e cioè non essere un privato, essere dichiaratamente no profit e avere un progetto serio identificabile per i quali i computer debbono essere utilizzati. Ci sono altre realtà simili alla vostra in giro per il mondo? Sì, ci sono, soprattutto sono legate all'esperienza molto sviluppata del no profit in America, dove c'è il grosso vantaggio fiscale che tutte le associazioni no profit possono ricevere fondi dai privati, e i fondi che i privati destinano ai no profit sono per il 100% considerati deducibili dalle tasse. Quindi tutto il mondo del no profit in America è molto fiorente, proprio perché è finanziato direttamente dai cittadini che lo desiderano. E questo ha fatto sì che una pluralità di realtà no profit, soprattutto in campo informatico, si sviluppassero. Su questo una cosa interessante che è successa è che una grande società di produzione di software, che non faccio nomi ma che si può immaginare, avendo visto l'attività di banco informatico, ha deciso di donarci per ogni computer che noi doniamo il software originale, per quanto datato e legato alla macchina che noi andiamo a donare, in modo tale che chi riceve la macchina riceve già la macchina col software originale, quindi si evitano tutti i grossi problemi di pirateria, e allo stesso tempo riceve un software già nella lingua del ricevente, per cui se noi mandiamo computer in Brasile per esempio, ci viene già dato il software in portoghese. Respiro termina qui, io vi ringrazio per averci seguito, vi ricordo che potete ascoltarci ogni sabato alle 16:30 circa e la domenica alle 14, che potete anche andare sulla pagina di Radio 24, poi cercare la pagina di Respiro e riascoltare la puntata che è andata in onda questa settimana, oppure potete scriverci all'indirizzo respiro@radio24.it. Buona giornata a tutti da Cristina Carpinelli.